Érale, haz convolver il cuore a cambiare l'umore. Érale, érale, érale, érale, soffocante, leggera, un amante che ti spia, dato che è già stata tua, sua, mia. Piacere sa che prima o poi ti fregherà. Metti una stella e il suono di un ricordo. Puoi fare il cieco, ma prova a fare il sordo. Quando ti insegue una musica, musica, musica, quella tua musica che non ti fa senza il carnevale. Tu non sei tu senza musica. Musica, musica, ti chiamo musica, ma in mente tanti nomi in più. Ti vorrei chiamare vita e se sto vicino a lui, mi vorrei chiamare volo, ti vorrei quando è tua.